onda Piazza Alta. Forse. Un programma di e con Enzino e Marzi. Alla conduzione tecnica Simone. Une. Perché non ero pronto, capito? No, ma non era che non è che non eri pronto tu. Non sono nato pronto. È il tuo megafono che non era pronto. È la protuberanza della tua del tuo viso che non è pronto. Giovedì 15 gennaio 2015, a Foiano, puntata, Piazza Alta. Non direi altro. Giovedì è il giorno più importante. Simone da Spippola sempre. E parte una da canzone quando? Bellissima. Da 1976. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Erano i Daft Punk con Go Lucky, amici. Questa bellissimo sera, simpatici amici, benvenuti. Senti che groove, senti che sound. Tutti insieme. Pensa che appunto questo era il loro album del 2013. 133.000 copie nel solo Regno Unito nei primi 4 giorni di uscita. Incredibile, resto basito di fronte a questa sarei statistica. Curioso così. degli altri quattro giorni, perché guarda Enzo, stasera potrebbe succedere qualcosa di veramente importante, ma soprattutto perché no, perché non lo so, però no, perché ho dato una sbirciatina alla playlist, alla lista, alla selezione musicale che ha fatto Simone, e potrebbe qualcosa, forse potrebbe, o è ubriaco qualcosa. O si sta avvicinando ai miei gusti musicali, e quindi è vero, potrebbe veramente succedere qualcosa. Ma vogliamo dire chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo? Ecco, dove andiamo già è lasciamo più difficile perdere. Diciamo che siamo Piazza Alta. Piazza Alta. Questa è Radio F. Radio F. Che la potete sentire sui 101.2 della modulazione di frequenza. Ma soprattutto, siccome noi siamo molto avanti, siamo innovativi, abbiamo un fantastico profilo Facebook sul quale potete mettere i like, e su cui potete fare anche i commenti, su cui potete risentire le trasmissioni vecchie e nuove. Madonna, che verve stasera! Ora parte. E poi potete sentirci ancora sulle app per Apple e Android. L'app si chiama Radio F. E in streaming in www.radiof.it. Bravissimo, ragazzi. Ma questa sera finalmente iniziamo a quagliare, caro Enzo, perché con noi la siamo speranza stranamente, che non ci siano interferenze orientati alla cultura. Stranamente, nessuno l'avrebbe mai detto. Non eravamo partiti con questa intenzione. Esatto. Però ci ritroviamo qui. E se potete, salvateci, perché non è appunto la nostra dimensione. Questa sera, proprio per continuare sulla cultura, parliamo di un'associazione culturale ormai da anni presente a Foiano, che ha anche un nome che evoca cose particolari. Secondo me è anche un po', farà anche discutere. Ma bravo, ma di questo ne parliamo con i nostri ospiti, perché l'associazione si chiama Foiano Quinto Cantiere. Attenzione! Quinto Cantiere, al di fuori degli schemi da sempre, un'icona dei nostri tempi, l'alternativa che mancava, da sempre orientato al sociale e alla cultura, un laboratorio, una fucina, una cucina della cultura. Dopo Quinto Potere, Quinto Emendamento, Quintino Sella, un ritrovo per arricchire anima e cervello, un confronto continuo a sostegno delle nostre origini, del nostro futuro, ma soprattutto del nostro presente, questa sera a Piazza Alta. Bacio, figlia mia, perché non ti ho mai visto e non ti vedrò mai. Ti bacio perché so che ci sarai. Imperatrice d'ombra e di vendetta, ti bacio perché tu non mi avrai mai. Tua madre ti ha donato la purezza e il ventre che nasconde la bellezza, istinto che comanda l'indulgenza. Ti bacio perché non mi vedrai mai. Sai di me e di te, carne e sangue. Sai di me. Sai di me, carne e sangue. dove siamo stati e dove andremo. Dove siamo stati e dove andremo, sai di me e di te. Dove siamo stati e dove andremo, sai di me e di te. Carne e sangue, sai di me. Questo lo so dire, Paolo Benvenu. Stasera mi sento molto lo DJ. Mette tre volte ogni settimana. Scusa, è anche una questione, allora, di questo è il cantatore preferito di Simone One. Una nuova innocenza dall'ultimo album uscito il 17 ottobre 2014. Pensa che Paolo e la sua band si sono esibiti proprio sabato scorso al Caremaschi di Arezzo e Simone, ci tiene a dirlo, c'era. Tra l'altro è stata anche un'annata un po' umida, speriamo non si sia, cioè ottobre ancora non è rientrato bene. Va bene, allora. Enzo, bisogna anche salutare e ringraziare che ci fanno sempre un'entrata fenomenale, sì. Paolo e Maria, che ci precedono nel loro programma. Grazie, siete fantastici, noi vi ascoltiamo in diretta. Ma entriamo nel vivo della trattativa, come diceva qualcuno, ma della trasmissione. Bene, siamo qui in compagnia di... Allora, avevo provato ad annunciarlo prima, ma io t'ho interrotto. Ma non so, c'è sempre questa interferenza che non so chi la fa. Dunque, stasera abbiamo un'associazione importante del paese di Foiano, che è l'associazione Foiano Quinto Cantiere. Allora, ci vuoi presentare, Marcello, i nostri ospiti, nostre ospiti? Alla mia sinistra, partendo da destra, per dire. Ho Fedora, poi buonasera. C'è Monia. Buonasera. E Anna. Buonasera. Ok. Finito. Quinto Cantiere, Foiano Quinto Cantiere, secondo me ha in nuce. Allora, sì, diciamo così. Bravo, se vuoi dirlo, dillo. No, ha in nuce qualcosa di importante che va approfondito. Allora, diciamo questo, che io da appassionato cantierista, carnevalaio del paese, quando la prima volta che ho sentito il nome di questa associazione ho fatto subito 4+1 ho fatto un'altra iniziativa collaterale. No, perché io avevo proprio intuito il fatto che ci fosse, non voglio dire una rivalsa, questo ce lo spiegheranno loro, però un voler far capire che a Foiano c'è qualcos'altro oltre al carnevale. Magari chi ce ne parla? Iniziamo con Fedora. Va bene, possiamo dire intanto chi siamo? Sì, assolutamente. Va bene, dunque siamo un gruppo di persone, di uomini e di donne, giovani e meno giovani, persone che vogliono molto bene al proprio paese e con un atteggiamento costruttivo. Cerchiamo di colloquiare con tutte le associazioni e contribuire nel nostro piccolo in maniera democratica con tutte le altre associazioni presenti nel nostro paese. Se vi permettete, posso dirvi anche i nostri valori. Dunque, gli associati della nostra associazione Foiano Quinto Cantiere rispondono tutti quanti a certi valori fondamentali contenuti nella nostra Costituzione, appunto valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di tolleranza, di giustizia e legalità. Ci proponiamo appunto di favorire occasioni di incontro, di relazione, e un aspetto importante della nostra associazione è di promuovere le attività, l'impegno, la creatività delle persone che si rivolgono a noi e che fanno parte del nostro territorio. Tengo a precisare che la nostra associazione è volontaria e nessuna di noi percepisce nessun compenso. E questo, Enzo, è importante, ma si mette bene, diciamo, si contestualizza bene in Foiano, dove l'associazionismo, soprattutto quello senza fini di lucro, è molto, molto presente, fiorente, molto ricco. Rigoglioso, sì, è vero. Nessuna di noi percepisce lo stipendio, e diciamo che anche i nostri organi, a parte che siamo stati costituiti con il notaio, noi siamo in legge perfettamente perfetta, quindi sotto ogni punto di vista. I nostri organi sociali sono composti dall'assemblea di soci che democraticamente elegge il presidente e il vicepresidente, gente, abbiamo un segretario, un tesoriere e due sindaci revisori. L'assemblea nomina il consiglio direttivo, il quale consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo. Quindi diciamo che è un'associazione in regola da ogni punto di vista. Oh, questo mi sembra una precisazione importantissima, perché può esserci vari tipi di associazioni. Questa diciamo che dimostra di essere un'associazione a norma di legge, direi. A così. Norma di legge, bravo. Esatto. Però a me l'idea che dà questa associazione. No, innanzitutto un'altra domanda, tanto per collocarvi meglio tutto quanto. Sì. Quando siete nati? Chi risponde? Prego. Monia. Wow. Allora, noi siamo nate il 12 dicembre 2009. Quindi abbiamo fatto la firma del nostro documento, statuto, esatto. E le persone, diciamo, che hanno firmato questo statuto, i soci fondatori sono Tatiana Poggiolini, Katia Dringoli, la sottoscritta, Anna Mascelloni, Anna Grazzi, Fedora Mici, Andrea Rosignoli, Fernanda Conti, Francesca Cassioli e Luca Brini. Noi siamo partiti con questa squadra. Più di 5 squadra. Anni dalla vostra costituzione, il prossimo anno ci aspettiamo una buona entrata nelle scuole primarie. Allora. Perché 5 anni in sesto. Io direi, Simone, abbiamo fatto un quadro generale di quella che è l'associazione. Contesto. Esatto. Ascoltiamo un altro brano che a Marci impazzirà. Vi dirò se mi piacerà. Aspetta, mi stanno dicendo qualcosa? Bob Dylan. Ah, l'identica richiesta. Bob Dylan, Simone, organizzati. Buon ascolto. Oh, must be the place. Talking Heads. Oh yes, yeah. Pensa che questo brano del 1982, quando Radio F era aperta già da 6 anni, perché Radio F del 1976, buon ascolto, ecco, è presente in ben 3 film come colonna sonora. Sonara. Te pensa alle volte la fantasia che hanno questi. No, Wall Street. Wall Street, oh. Il denaro non dorme mai. L'omonimo film di Allegria. Sorrentino. Ok. Ritorniamo in studio con ritorniamo in studio, non lo sentivo dal 79, da Paolo Valenti al 90° minuto. Siamo con le Foiano Quinto Cantiere. Esatto, ci siamo lasciati, abbiamo fatto un po' il quadro della situazione da un punto di vista proprio organizzativo e diciamo costituzionale, sì, dell'associazione. Siamo partiti da una domanda a cui dobbiamo dare una risposta. Quinto Cantiere, perché questo nome? Chi risponde? Rispondo io, Maria. Allora, il nome nasce casualmente in uno dei primi incontri che è avvenuto e gli altri che si sono susseguiti avvengono più o meno negli stessi luoghi, che sono anche le abitazioni, che sono luoghi anche più specifici come la biblioteca per quanto riguarda poi questo nostro grande progetto che è quello della lettura. Nell'occasione, il primo incontro dove casualmente ci ritroviamo è quello di un'abitazione e viene tirato fuori questo Foiano, soprattutto questa idea del quinto cantiere. Perché il quinto cantiere? Perché comunque Foiano è già ricchissima di questo aspetto del carnevale che la contraddistingue in tutta Italia, anche più internazionali. Sì, sì, sì. E quindi io, sentendo questa cosa, mi ha illuminato. Poi è passata un po' in sordina, insomma, come dire, la serata è finita lì. Quando ci siamo ritrovati la volta successiva e ci siamo di nuovo, come dire, confrontati sul coniare il nome dell'associazione, e mi è tornato in mente e l'ho rilanciato, ma non era certo farina del mio sacco. Io l'avevo semplicemente sentito, l'avevo udito, mi è piaciuto tantissimo, è stato di nuovo condiviso, come in realtà viene condiviso un po' tutto quello che ci contraddistingue, dal piacere di fare le cose insieme. E è stata un'ottima partenza, perché il nome è ancora come dire, molto gradito e molto. Quindi niente a che vedere con eventuali, diciamo, interventi sulla viabilità stradale del paese. Non sono cantieri edili, diciamo, cantieri stradali. Diciamo che lo stiamo costruendo tanto. Ah, bellissimo. Ecco, allora facciamo così. Perché guarda, il cantiere è un posto dove è una fucina dove si progetta, dove si crea, come diceva Fedora, dove si pensa, si riflette e si costruisce, come avviene esattamente per il carnevale. Esatto, quindi esatto. C'è stato un momento in cui, diciamo, vi siete un po' guardati negli occhi per una volta, due volte, e poi è nata la necessità anche un po' di istituzionalizzare questa comunione di intenti che era venuta un po' fuori parlando. Sì, sì. Siamo persone molto diverse, lo diceva anche prima Fedora, no? Siamo uomini, donne di età, di cultura, che apparteniamo a mondi molto diversi, però che abbiamo in comune una volontà, la voglia di condividere. Sai, dietro la parola cultura c'è tanto. Sì, sì. In particolare ci siamo molto trovate nel piacere della lettura, quindi abbiamo fondato, diciamo, questo gruppo di lettura. E ci incontriamo una volta al mese da gennaio a giugno e ogni volta scegliamo un tema per la volta successiva. E in questi incontri a volte sono molto divertenti, come lo è stato per esempio ieri sera, c'è stato il primo incontro dell'anno, era il libro dell'estate. Altre serate sono molto commoventi, perché tirano fuori un po' attraverso i libri, no? Si parla un po' di quelli che sono i nostri sogni, le nostre vite, quindi delle volte anche toccanti. E invito, insomma, chi ha il piacere, di l'amore verso la lettura e leggere, ecco, di contattarci. Noi abbiamo sia una pagina Facebook. Sì, adesso ricordiamo tutto: il sito che è www.foianoquintocantiere.it e la pagina Facebook che è, sì, Foiano Quinto Cantiere, tutto attaccato o è staccato? Foiano Quinto Cantiere su Facebook è tutto attaccato. Tutto attaccato, perfetto. Ma poi comunque basta mettere, sì, Foiano Quinto Cantiere anche staccato sulla ricerca, sì, e si trova la vostra pagina. Ricca, vedo, di cose che avete fatto, di cose, sì, che andrete a fare. Ora non ci bruciamo subito tutto, ma insomma, appunto, parlavi anche ieri sera di un ultimo evento che, sì, è stato quello che poi ne parliamo più diffusamente dopo. Praticamente voi vi date l'impegno di leggere un libro e poi di commentarlo tutti assieme, un unico, no, libro, oppure ognuno abbiamo provato libro, anche questa modalità, cioè di darci un unico titolo e la volta successiva di discuterne. Di solito scegliamo un argomento, un tema, può essere, okay, la passione, il sogno, le donne, e la volta successiva ognuno di noi parla del proprio libro. Quindi Enzo, sono argomenti che potrebbero anche interessare anche a te. Certo. Fare lo stesso. No, vabbè, io direi, voglio riprendere questo discorso perché ho delle domande. Guarda, ti faccio ascoltare un bellissimo brano e poi continuiamo. Bellissimo, lo giudicherò io, guarda. Buon ascolto. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion, without conversation or a notion. Avalon, when the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, there's the picture changing every moment, and your destination you don't know. Roxy Music Avalon del 1982, anche questa. Si vede che Simone è a uno sbotto di lui Inizio anni 80. Deve approfondire, quando va in fissa deve approfondire, vuole tutto di quell'anno. Traccia numero 3 dell'ottavo e ultimo album del Roxy Music di Brian Ferry, parente mio, Ecco, tra l'altro, se volete a un certo punto capire chi è veramente Simone e focalizzarlo proprio visivamente, cosa potete fare? Potete andare su YouTube, abbiamo il nostro canale Piazza Alta, in cui ci sono dei bellissimi frame. Ma anche di questa sera, stiamo parlando. Certo. Facciamo un saluto e ringraziamo Paolo che sta riprendendo. E potete vedere, oltre che sentire, dare un senso e un volto a queste voci. Ci stiamo attrezzando anche per gli odori. Non vorrei far notare agli amici a casa, poi metterò anche una foto sulla pagina Facebook. Lo splendido colore cambiato del maglioncino di Marzi. Un khaki passati, però. Vabbè, quest'ora lo affronterò. Mi sento un po' rifiutato, ma lo affronto col mio analista nelle prossime tre sedute. Vai tranquillo. Torniamo a cose serie. Oltre a YouTube, la nostra pagina Facebook. Bravo. Domani troverete anche la puntata. Se non ci penso io. Chi ci deve pensare? Zuckerberg. No, ci dimenticherà. Allora, io volevo riprendere un attimo l'argomento di prima, perché mi interessa molto questo discorso della lettura. Sarai invitato. La prossima volta ti aspetto. No, ma io ora, al di là ma del lui fatto... Ma non sa leggere. Ecco, al di là... Io sono un... Ascolta. Leggiamo noi per te. Mi viene l'orticaria. No, cioè... bello, però bello questa cosa che leggeranno loro per te o per gli altri. No, ma se si parla di cultura... C'è una ricerca scientifica che leggere aumenta la produzione di globuli bianchi. È una ricerca scientifica e leggendo ci ammaliamo meno. Beh, questo è veramente bello e capisco anche perché prendi tutte queste medicine. No, sto scherzando, perché Marzi è un grande lettore. Un buon lettore deve leggere 30 libri all'anno. Lui non ha tempo. Ora sono delle cifre queste che a me mi stanno un po' scioccando. Ho detto buono, non ottimo. Ok. Perché lui legge di più. No, infatti. Ma semmai vogliamo migliorare. Guarda, ti rispondo con una frase fatta: è il tempo che mi manca. Ma effettivamente, dormendo poco, evidentemente ho poco tempo per leggere. No, però state dicendo, ora le diciamo in tono scherzoso, però state dicendo cose molto interessanti, scientifiche. Scientifiche, ma si sente anche la passione che avete per questo argomento. Sì. Quindi spiegateci meglio. Ed è per questo, Enzo, se mi permetti, che avevo introdotto un argomento che sembrava quasi serio e lo il voglio riprendere perché sono il gruppo lettura. Gruppo lettura. Questo discorso a me che affascina molto dell'individuazione di un tema e della condivisione della lettura di un libro sul tema scelto. Mm-hmm. Quindi c'è anche, volendo, una sorta di processo introspettivo di condivisione di esperienze anche personali e di emozioni che, certo, ha creato la lettura, punti di vista diversi e di punti di vista diversi. Questo, ecco, quindi è una cosa. Lui è molto più alto, io sono più pragmatico. Voi chi sceglie il tema? Allora, nel primo incontro che abbiamo fatto ieri sera è il libro dell'estate. Ok. E quindi ognuno ha portato il libro che è più adatto da leggere in spiaggia. Insomma, ieri sera c'erano diversi gialli. Peccato. Per esempio. Anche descrivendo la situazione della serie c'è stata una descrizione fantastica dove ha detto: io non sentivo la gente che passava, il sole che picchiava, la sabbia che volava. Il libro mi ha catturato, e quindi questa descrizione veramente molto partecipata, molto introspettiva, ma anche proprio, come dire, di condivisione, a me ieri sera mi sembrava, invece di essere in biblioteca, veramente di essere in spiaggia. Però vedi, io ho paura di questo, cioè mi immagino il libro che mi cattura e poi non mi rilascia. No sta scherzando, è un ottimo lettore anche lui, altro che. E quindi praticamente questa è la prima fase, no? Però non sempre ieri sera il tema era quello dell'estate, sì. Ma per esempio altri temi interessanti, allora l'anno scorso ci sono stati diversi temi: la passione, l'amore. Il prossimo incontro sarà l'11 febbraio, ricordiamo. Sempre in biblioteca dalle 9 alle 11, e il tema è storie di vita comune che diventano straordinari nel racconto, cioè ovvero impegnativo, o anche per trovare molto un libro personale, che ne parli, nel senso qui ognuno poi ci gioca un che po', vuole. Esatto. Quindi un po', è abbastanza, diciamo, una maglia grande, no? Perché, certo, uno poi alla fine porta anche quel libro che sente di più, che in quel momento ha letto e lo vuole condividere con gli altri. Ma te potresti anticipare il tuo libro? No, non si può. No, un suggerimento che ne ho. Guarda, io gli incontri lo tengo sempre. Ah, 900. È da ieri sera che Baricco, dice, non letto. effettivamente lei è coerente. Io il mio libro lo tengo in borsa finché non tocca a me, perché noi ci mettiamo tutti in cerchio. Ho pubblicato adesso una foto sulla pagina Facebook di voi che state facendo la lettura, è bellissimo. Siete poi tantissimi, insomma, voglio dire. Ma intorno a una decina. 20, delle... più o meno. Sì, mm-hmm. Sì, diciamo il numero varia, perché sai, poi siamo tutti gente impegnata, mogli. Ma rischiate anche di fare tardi, nel senso che presi dal racconto. L'incontro dovrebbe finire verso le 11, però in realtà poi sforiamo sempre un pochino. Ecco, e sera la mezzanotte. Sì. Ecco, ma in questi incontri, tanto per essere ancora più alti, nutrite solo la cultura. C'è anche magari qualche dolce tipico, qualcuno cucina, anche per rendere quello in altre occasioni. C'è stata, per esempio, c'è stata l'iniziativa a dicembre, insomma, perché noi abbiamo anche il piacere di stare insieme, certo. Insomma, al di là dell'interesse. Ecco, ve lo dico, se volete invogliarmi, magari quello è un argomento che... E c'è stata una serata multietnica dove ognuno di noi si è cimentato in un piatto diverso. Ne vuoi parlare te, Anna? Che è una cosa che l'ha molto colpito. Sì, ma colpirebbe anche me, ne voglio sapere di più. Allora, siccome vedo che Marcella ha già l'acquolina... Salutissimi, veloci. A dopo. Dopo. Non erano così urgenti. You always live your life, never thinking of the future. E questi erano gli Yes. Adesso Marcellino Marci ci dirà con cosa, che cosa suonavano. Suonavano, c'era una chitarra. Owner of the Lonely Heart. Ti stupirai, Enzo, ma la pronuncia era abbastanza corretta. È una canzone dal sound molto diversa da quello delle origini, ma sicuramente uno dei singoli di maggior successo della band inglese. È chiaro. Allora, e adesso, a questo punto, direi, prima di continuare, dobbiamo ricordare un po' di cose. Sì. Devi fare dei saluti? Sì, anche importanti, perché vorrei salutare Laura. Ciao Laura. Elena. Ciao Elena. Che tra l'altro fa parte anche di Fogliano Quinto Cantiere. E Marco, detto il Bija. Ciao Bija, che è un mio fornitore ufficiale di immagini la mattina presto, perché mi danno la carica per affrontare la giornata. E Alessandro, che ha subito un intervento importante, che ci sta ascoltando dal suo lettuccio. E a proposito di interventi importanti, saluto anche Emanuele, che ha subito un intervento meno importante, ma insomma è sempre in ospedale, che sta facendo un po' di convalescenza. E gli interventi si fanno in cantiere. Stasera siamo con Fogliano Quinto Cantiere. Pensate voi dove stiamo arrivando. Eravamo rimasti a una cena multietnica. Fantastico. Ah, chi ce ne parla? Sempre Anna, che ce ne parla? Inizia a parlare di questa cena multietnica che si è tenuta nel periodo natalizio. Nel periodo prenatalizio. Prenatalizio. Ve ne parlo anche perché per elencare tutti gli alimenti che sono stati con cura preparati, e mi sono dovuta far fare lo spelling assolutamente di tutte le pietanze. Guarda. E erano veramente tante, meno che la Saker, perché scrivere Saker è abbastanza semplice. Faccio solo un'annotazione, scusatemi, che il nome, io onestamente, è forse l'ultima cosa di cui mi preoccupo quando devo mangiare. Però, e questo guarda, però fa il paio con la ricerca della cultura, della profondità e della e via. Tra l'altro abbiamo appena pubblicato la foto di voi a cena, anzi a fine cena, con la Saker, appunto. Ma adesso Anna ci andrà a parlare di tutta la cena. No, parte scherzi. No. Sintetizzo comunque la cena multietnica aspettando Natale. Il menù era veramente incredibile, perché comunque non ce l'abbiamo proprio fatta nemmeno a consumarne una metà, perché erano veramente tante cose. E comunque si parte, che ne so, da una sangria spagnola, un hummus splendido, il baba eccetera il baba ganoush, il kafta, una paella incredibile della quale abbiamo fatto anche la foto. Marcello ha già deciso di iscriversi, ha preso già la tessera. Insieme alla tessera, se mi date anche il menù del prossimo anno. No, ma a parte le battute, continuiamo. Comunque, dunque, guarda, di là delle nostre, sì, a parte il le nostre battute, il senso che è spiccato da questa cena è stato anche quello che la cena raccontava delle storie, perché ogni piatto era preparato anche con degli ingredienti che in qualche modo, degli odori, delle spezie che in qualche modo richiamavano veramente la cultura di altre nazioni che non erano assolutamente presenti nel nostro tavolo. Sì. Ma gli alimenti portavano anche storie di persone che hanno vissuto in altre situazioni, o parenti che in qualche modo hanno insegnato, hanno tramandato questo aspetto legato alla cucina e alle tradizioni. E quindi è stata veramente una cena, oltre che ricca di sapori, ma anche ricca di significati e di amicizia. E assolutamente giusto, Fedora dice di amicizia. Io, permettetemi, ascoltandovi, a volte faccio un discorso un po' serio, per cui la mia mente ti guardo è complicata. Con attenzione, perché non so bene dove. Ascoltando quello che ci state arrivare. Raccontando stasera, mentre ci si immagina sempre un'associazione che deve fare cose, costruire, voi siete un'associazione dell'anima. Cioè, nel senso, vi Io. Sento Ma proprio. No, guarda, non ti credo. Sì, perché socioculturale, però vi sento. Io mi sentirei proprio rilassato a far parte Ma della certo. vostra associazione. Quello sì, di sicuro. Sì, senti. Enzo, stasera però abbiamo lo devo fatto anche delle casa, iniziative perché, diciamo, più attive. Sicuramente, ecco, no, ma ecco, io finivo quindi questa parte, la finivo così in modo ascetico. Possiamo metterci un po' tutto. Sì, sì, no, assolutamente. Però sicuramente a Fogliano, per quello che ne so io, di questi eventi e iniziative, forse siete l'unica associazione che fa questo tipo di eventi. Sì. Poi altre associazioni che fanno tante altre cose belle allo stesso tempo, ci mancherebbe, però di questo tipo qua, lettura, queste scene in cui non è solo mangiare ma è anche ricordare, riflettere, insomma, sono cose veramente veramente interessanti, forse uniche nel genere, quantomeno sì, da noi. Oltre a quello che hai detto te, appunto, questi aspetti di valorizzazione della creatività, delle potenzialità che ci sono nel nostro territorio. Non a caso ora Monia vi dirà il nostro programma che facciamo. Oltre pensiamo all'anima, anche alla testa. Certo, cioè, beh, assolutamente, beh, senza la testa l'anima non può funzionare assolutamente. Va bene, io direi che nel prossimo intervento parliamo del programma. Sì, ho una curiosità anch'io. Segnatela, perché poi sono tra di me. Ecco, sono Simone che represso. Nell'intento di filmare, ma perché ho finito il tempo, capito? Nell'intento di filmare deve far partire anche il prossimo brano e sarebbe da filmare lui. Buon ascolto dalle F frequenze. Beach Day. I wanna lay you down. Qui avevo ancora i pantaloni corti. Aspetta, a parte li porto ancora i pantaloni corti. Non so se lo sai, comunque periodicamente anche in edicola trovi dei corsi registrati in CD di inglese, di lingue straniere. Ma stasera ho veramente delle difficoltà, vi chiedo scusa. Sì. Però normalmente non è che sia un fenomeno, però stasera un traduttore particolare. Questo era il maggior successo commerciale comunque dei PhD. Dei PhD. Le PhD, continuo a dire sì. Dei. Scusa. Ma perché forse pensi alla colazione di domattina. Io invece volevo, il dubbio che avevo prima. Torniamo a parlare con le nostre ospiti di Fogliano Quinto Cantiere. Chiaramente. È sul gruppo di lettura, è una cosa che a me mi affascina perché sì. Sto quasi metabolizzando il fatto che sia un momento veramente di incontri profondi. E ho questa curiosità, sì. Voi vi date questo tema che di mese in mese poi diciamo condividete, ma fate anche delle letture di brevi, brevi pezzi, delle sì. declamazioni? Sì. Delle... Ognuno sceglie come raccontare il libro, può essere mm-hmm. leggendo un passo che per lui è stato significativo, oppure racconta la trama del libro, ognuno ha un suo modo. C'è per esempio una nostra amica, insomma, lei legge sempre il finale, per esempio, del libro. No? Del libro. Lo legge anche quando lo acquista. Subito. Sì, legge subito l'ultima pagina. Questo. E quello è il suo modo di leggere un libro e di... Pensa, io guardo il prezzo. Anche io. Guarda, è una delle domande che facciamo sempre. Bello, ma quanto costa? Anche noi lo chiediamo perché beh, insomma alcuni non essere un impegno sì, economico sì, l'importante sì. è usare la biblioteca, esatto, ecco, tra l'altro brava. Faremo anche una puntata anche sulla biblioteca perché è ricchissima e ci sono dei libri splendidi, uno può scegliere senza pagare, può contribuire a usare una cosa pubblica che è di tutti e quindi basta usarlo, tenerlo per bene e riportarlo. Sì è vero. Allora questo no. Faremo anche una puntata sulla biblioteca perché ha ragione Fedora, è veramente un posto forse poco sfruttato. E chi pensi dai di intervistare? E te? No, chiaramente. Torniamo, dimmi. In biblioteca abbiamo messo, è una cosa che anche questa è un'idea che ci è venuta percorrendo appunto la strada della riflessione sui libri, una bacheca nella quale ognuno è invitato a appendere il proprio punto di vista sul libro che ha appena riportato. E è una cosa, come dire, è una consigli di lettura. Sono consigli di lettura, sono tracce che il lettore andando in biblioteca può trovare e l'abbiamo attaccata noi un paio di anni fa, ormai sì. Mi sembra, sì, più o meno un paio di anni fa, e si trova entrando in biblioteca. Sì, l'ho visto, prima di entrare in biblioteca, sì, esatto, sì. Sulla porta, sì, ho visto. Io confermo quello che ho detto prima, siete una mosca bianca a Fogliano, perché tra realmente... l'altro Enzo, come è capitato più volte nelle nostre trasmissioni precedenti, stiamo scoprendo delle sfaccettature delle persone, dei personaggi di Fogliano che chiaramente a me erano anche sconosciuti. Ma guarda, anche per noi anch'io scopro so delle sfaccettature, ecco. Anch'io che non conoscevo vedi che è reciproca e che va a finire. Io sto facendo questa considerazione in queste settimane, Enzo, che Fogliano non è poi così povero di iniziative, di persone, di intelligenze, di iniziative come alle volte magari vogliono farci credere o pensiamo. O pensiamo. Secondo forse me è un pensiero un po' limitato che un po' tutti hanno, ma il numero delle associazioni, le persone coinvolte, le attività che vengono messe, ma poi mi sembra che quasi tutto l'anno è impegnato in iniziative di vario genere, quindi guarda che sai fare. Potremmo anche scoprire che Fogliano è viva. Sì, no, sicuramente sì, Fogliano è viva con le due. O anche evviva Fogliano. Evviva Fogliano. Ma a proposito, dopo questi slogan meravigliosi, parliamo proprio, visto che purtroppo come tutte le settimane il tempo vola, siamo arrivati quasi alla fine, quindi quale momento migliore per ricordare i prossimi appuntamenti come diceva che avete il calendario. Il tempo vola. Prego, aspetta. Allora, seguiamo quest'anno con anche delle uscite. A settembre abbiamo fatto un'uscita ad Arezzo con una guida professionista che ci ha accompagnato da vedere un Arezzo che non conoscevamo, ci ha insegnato ad alzare lo sguardo, abbiamo visto cose che magari noi passiamo sempre per il corso ma che non notiamo mai, no? E che non notiamo mai, e quindi anche quest'anno abbiamo rimesso in calendario due uscite, una sarà a Siena e una a Cortona, sempre con degli accompagnatori esterni. Anche questa è una cosa veramente bella, cioè è di una semplicità estrema, ma è di una bellezza incredibile. Sì. Solo camminando per Foiano qualche volta con calma e alzando la testa ti accorgi di vedere cose che non hai mai visto. Quindi organizzata. Abbiamo anche portato i propri figli, insomma, anche gli adolescenti, i ragazzi che all'inizio non erano molto contenti, ma c'erano i lecca-lecca. Sì, io in borsa porto sempre ognuno ha le sue priorità. A un certo punto Monia ha tirato fuori i lecca-lecca per tutti. Sì. Ha corrotto queste anime tenere. No, perché il calo di zucchero è fondamentale nei bambini. E quindi io avevo questa busta di Chupa Chups. E quindi a metà percorso sono stati tirati fuori. Andando avanti con il programma, perché sennò Marcello si poi dopo, subito. Scusate, e poi ci sarà una mostra fotografica in occasione della Fiera del Fiore il 18 e il 19 aprile. Avrà una un mostra tema, scusa, sì, di David Monciatti, All Land, sulla terra. Okay. E quindi avremo, insomma, collaboriamo. E il prossimo incontro sarà la presentazione di un libro che si chiama Quadri di donne di quadri, di un autore che si chiama Cinzia Della Sciana, che anche questa persona non la conosciamo, nel senso che una persona di Foiano ci ha chiesto, no, ci ha contattato di questa associazione culturale molto fertile e ha chiesto di venire a presentare il suo libro qui a Foiano con una presentatrice, una persona molto importante. Quando sarà questo, ricordiamolo? Sarà sabato 24 gennaio alle ore 17, sempre in biblioteca. Perfetto, quindi diciamo il vostro luogo di ritrovo è comunque la biblioteca. Con l'aperitivo. Ah beh, e qui Marcello crolla, perché sull'aperitivo crolla, ma noi stiamo scherzando, ma ovviamente... Un altro appuntamento molto importante sarà quello che faremo a maggio. Sì? È molto importante perché c'è un ragazzo autistico, sì, un ragazzo che ha frequentato il nido, scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media Foiano, è stato assistito con molto ingegno e con molta molto bene. Questo ragazzo adesso essendo autistico, insieme a una persona specializzata, è riuscito a esprimersi attraverso il segno e il colore. Prima è stato fatto un piccolo libro che si chiama Il piccolo principe. La bellezza di questo libro, per una persona che un pochino guarda la realtà di un ragazzo, c'è un processo di crescita, quindi questo bambino da una figura schematica che neanche si vede che è una figura umana è riuscito a dare delle caratteristiche, delle sembianze un po' umane e dando anche una caratteristica e dando anche una collocazione spaziale abbastanza appropriata. Ripeto, questo ragazzo ha 20 anni, è un ragazzo autistico. Oltre questo, insieme a questa persona specializzata, ha fatto una serie di quadri sulla gabbianella e il gatto. Un gallerista fiorentino ha visto questi quadri, è rimasto impressionato dalla bellezza, dal colore, dalle sfumature, dalle sensazioni che questo ragazzo ha voluto esprimere attraverso il colore, che ha fatto una bellissima mostra a Firenze e adesso è a Roma in una galleria. Lui è nato, ha vissuto a Foiano, è interessato alla famiglia a fare questa mostra nel nostro paese. Quindi nel mese di maggio faremo una settimana la mostra, porteremo questa mostra di questo ragazzo. Bellissimo. Quindi vista l'importanza della socio-educativo, questa sociale e educativa. Certo, vista l'importanza dell'evento, anche in concomitanza con la mostra, ne potremo dare il maggior risalto possibile. Faremo il possibile per farlo. Grazie. Siamo arrivati alla fine e tutte le volte è così, non ce ne accorgiamo e sono già le 23, cioè non abbiamo nemmeno incominciato a mangiare però ci siamo riempiti lo stesso, saziati l'anima. Chiaro. Ringraziamo Fedora Monia, Anna, che ho detto Maria prima, sì, perché ma non nessuno mi corregge a me, perché ormai mi prendono ma perché così. Ti vogliamo bene così perché come sei Maria, diciamo che un pochino avevo sbagliato, ma non di tanto, ecco. Ringraziamo appunto l'associazione Foiano Quinto Cantiere. Prego Fedora. Io devo farvi complimenti, che siete bravissimi e ci sentite bene, siamo sentiti a casa nostra. Questa è la cosa che ci fa più piacere. Allora, ti ringrazio, questi sono i soldi che ti avevo promesso. Grazie per i complimenti. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sì, giovedì 22 gennaio. Vi ricordiamo il nostro canale YouTube, la nostra pagina Piazza Alta su Facebook, dove troverete la trasmissione di oggi da domani. Soprattutto potete altri... trovarci in per giro, strada, per sì, strada, sì, vabbè, ma a parte questo, e gli altri appuntamenti durante la settimana, gli appuntamenti del weekend e un lunedì da Leone che cura Simone, che ringraziamo. Prego, Simone. Grazie. Boh, non lo so. A tutti. Ma adesso per Fedora stravolgiamo la nostra scaletta tutte. E per tutti che cosa mettiamo? Fatemi vedere, fatemi sentire. Bob Dylan. Oh yeah, yeah. A venerdì prossimo, a giovedì buon prossimo. Buon ascolto dalle F frequenze. Ciao. Grazie a tutti, buonasera. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Before you call him a man. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing. Love is blowing in the can see the sky. How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows too many people have died? My friend is blowing.